ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Quella mattina Martin rivolse la sua attenzione al considerevole mucchio di ritagli inviatigli dall'ufficio stampa della casa editrice e lesse di sé e di quanto fosse diventato di moda leggerlo, anzi, una vera e propria mania. Tutta la sua produzione letteraria era stata gettata in pasto al pubblico in un unico colpo. Era questo il motivo di tanto successo. Aveva preso il pubblico di sorpresa. Così era accaduto a Kipling, quando giaceva nel suo letto di morte e all'improvviso tutta la plebe, animata da un pensiero da plebe, aveva iniziato a leggerlo. Martin ricordò come tutta la plebe del mondo, quella stessa che aveva letto e acclamato Kipling senza peraltro averlo affatto capito, all'improvviso, pochi mesi dopo, si era scagliata con furore contro quello stesso scrittore e lo aveva fatto a pezzi. Martin fece una smorfia al pensiero. E chi era lui per pensare che di lì a pochi mesi non sarebbe stato trattato nello stesso modo? Beh, si sarebbe fatto gioco della plebe. Per quel tempo sarebbe stato via nei mari del sud a costruire la sua casa di canne, a commerciare perle e copra, a saltare le barriere coralline in fragili canoe, a pescare squali e bonito, a cacciare capre selvatiche tra le alture della vallata che giace vicino alla valle di Taiohae. Ma proprio mentre pensava a queste cose, Martin comprese quanto la sua condizione fosse disperata. Vide con chiarezza che si trovava nella valle dell'ombra. Tutta la vita che era in lui stava svanendo, si stava indebolendo, avviandosi verso la morte. Si rese conto di quanto tempo passasse a dormire e di quanto desiderasse dormire. In passato aveva odiato il sonno. Il sonno lo derubava di preziosi momenti di vita. Per Martin, 4 ore di sonno su 24 significavano essere derubato di 4 ore di vita. Lui non era mai stato generoso con il sonno. Ora aveva smesso di essere generoso con la vita. La vita non era più buona, non aveva più quel buon sapore, era diventata amara. E ciò significava che lui era in pericolo. Una vita che non brami la vita è ben avviata verso la sua fine. Un vago istinto di autoconservazione si agitò in Martin e lui capì che era davvero tempo di andarsene. Si guardò intorno, ma trovava penoso anche solo pensare a fare i bagagli. Forse sarebbe stato meglio rimandare all'ultimo momento. Nel frattempo avrebbe potuto procurarsi l'equipaggiamento. Martin prese il cappello ed uscì. Si fermò in un'armeria dove passò il resto della mattinata a comprare fucili automatici, munizioni e attrezzature per la pesca. Tornò all'hotel contento, sentendosi soddisfatto al pensiero che ci fosse una comoda poltrona Morris ad aspettarlo. Così, quando, entrando in camera, vide Joe seduto proprio su quella poltrona, emise un gemito solo. Joe era entusiasta della lavanderia. Ogni dettaglio era già stato definito e il giorno dopo lui ne sarebbe divenuto il proprietario. Martin si era disteso sul letto, con gli occhi chiusi, mentre l'altro continuava a parlare. I suoi pensieri non erano lì. Erano così remoti che lui stesso era consapevole soltanto a tratti di avere dei pensieri. Persino rispondere a Joe di tanto in tanto gli richiedeva un notevole sforzo. Eppure quello era Joe, uno che gli era sempre stato simpatico. Ma l'amico amava troppo la vita e quella passione echeggiava chiassosamente nella mente sfinita di Martin e lo faceva soffrire. Era una prova dolorosa per i suoi sensi troppo stanchi. Quando Joe gli ricordò che prima o poi, in futuro, si sarebbero fatti una bella scazzottata insieme, Martin avrebbe potuto mettersi ad urlare. Ricordati, Joe, dovrai gestire la lavanderia secondo le regole che mi hai elencato ai vecchi tempi, lì allo Shelly Hot Springs, disse. Niente straordinari massacranti, niente lavoro notturno e niente bambini alla pressa, niente bambini da alcuna parte. E un salario adeguato. Oh, Joe annuì e tirò fuori un quaderno. Guarda qui, ho messo giù queste regole stamattina, prima di colazione. Che ne pensi? E Joe le lesse ad alta voce, mentre Martin le approvava, chiedendosi contemporaneamente quando l'amico se ne sarebbe andato. Quando Martin si svegliò, era pomeriggio inoltrato. Lentamente si ricordò dov'era. Si guardò in giro per la stanza. Joe doveva essersene andato alla chitichella quando lui si era addormentato. Pensò che l'altro si era comportato in modo davvero gentile e poi chiuse gli occhi e si addormentò di nuovo. Nei giorni seguenti Joe non lo importunò molto. Era troppo preso a prendere possesso della lavanderia e a organizzare il lavoro. Inoltre, per sua fortuna, i giornali annunciarono che Martin Eden aveva prenotato un passaggio sulla Mariposa solo il giorno precedente a quello fissato per la partenza. Una volta l'istinto di autoconservazione si era fatto sentire e Martin era andato da un dottore per sottoporsi a un'indagine accurata. Non c'era nulla che non andasse. Il suo cuore e i suoi polmoni furono definiti magnifici. Ogni organo, per quanto il dottore potesse sapere, era normale e lavorava normalmente. «Lei è perfettamente sano, signor Eden», fu la conclusione del medico. «Non vi è il minimo problema. Lei è in perfetta forma. La invidio, sinceramente. La sua salute è superba. Guardi il suo torace. Deve la sua splendida salute proprio a quei polmoni e a quello stomaco. Dal punto di vista fisico si trova un uomo come lei ogni 1000, anzi, ogni 10.000. Incidenti a parte, potrebbe campare fino a 100 anni. E Martin seppe che la diagnosi di Lizzy era stata esatta. Fisicamente era sano. Ma c'era qualche rotella nel suo cervello che aveva smesso di funzionare e non c'era alcuna cura che andarsene nei mari del sud. Il problema era che adesso, al momento della partenza, non sentiva più il desiderio di andarvi. I mari del sud non lo affascinavano più di quanto lo affascinasse la civiltà borghese. Anzi, il pensiero della partenza non lo emozionava e l'atto stesso del partire lo atterriva, come se alla sua carne fosse richiesto uno sforzo supremo. Forse si sarebbe sentito meglio una volta a bordo, una volta partito. L'ultimo giorno fu una prova penosa. Bernard Higginbotham lesse sul giornale del mattino che Martin era in procinto di partire e quindi venne a salutarlo insieme a Gertrude e a tutto il resto della famiglia. Così fecero anche Hermann von Schmidt e Marian, e poi c'erano affari da concludere, conti da pagare, infiniti cronisti da sopportare. Martin disse addio a Lizzy Conley bruscamente, davanti all'ingresso della scuola serale, e poi corse via. All'hotel trovò Joe, che era stato troppo preso dalla lavanderia per poter passare prima a salutarlo. Martin sentì che quella goccia stava per far traboccare il vaso, ma si afferrò ai braccioli della sedia e si costrinse a conversare con l'amico per mezz'ora. «Sai, Joe», gli disse, «non sei legato alla lavanderia. Non ci sono vincoli. Puoi venderla quando ti pare e spenderti tutto il denaro. Se ti stufi e vuoi tornartene per la strada, fallo. Fa ciò che ti rende più felice». Oh, Joe scosse la testa. «Ti ringrazio, ma basta strada per me. Fare il vagabondo va bene, tranne per una cosa. Le ragazze, non posso farci niente. Sono un uomo da donne. Uno che non sa stare senza donne, e devi farne a meno se sei un vagabondo. Quando passavo davanti a delle case dove c'erano delle feste o dei balli e sentivo le donne ridere e vedevo i vestiti bianchi e le loro facce sorridenti attraverso le finestre, accidenti, Mart, quei momenti lì erano davvero un inferno. mi piacciono troppo. I balli e i picnic e le passeggiate sotto la luce della luna e tutto il resto. Io voglio la lavanderia, dei bei vestiti, dei bei dollari nei miei pantaloni. Ho già visto una ragazza proprio ieri e sai, per come mi sento, potrei anche sposarla presto. Al solo pensiero ho fischiettato per tutta la giornata. È una bellezza. Allo sguardo gentile e la voce più dolce che si sia mai sentita, la voglio. Ci puoi scommettere. E di, perché non ti sposi? Con tutti quei soldi che hai da buttar via, potresti prenderti la miglior ragazza del paese. Martin scosse la testa e sorrise. Ma nel profondo del suo cuore si stava domandando perché mai un uomo potesse desiderare di sposarsi. Gli sembrava una cosa straordinaria e incomprensibile. Dal ponte della Mariposa, allora stabilita per la partenza, Martin vide Lizzie Conley che si nascondeva tra la folla sulla banchina. «Portala con te», gli suggerì un pensiero. «È facile essere gentili e lei sarebbe immensamente felice». Per un attimo Martin si sentì tentato di farlo e l'attimo successivo quella tentazione si trasformò in terrore. Alla sola idea fu preso dal panico e la sua anima stanca lanciò un grido di protesta. Si allontanò dal parapetto con un gemito, mormorando «Ragazzo mio, sei malato. Sei davvero malato». Martin si rifugiò nella sua cabina, dove restò nascosto fino a quando il transatlantico non si fu allontanato dal molo. A colazione, in sala da pranzo, scoprì che gli era stato riservato il posto d'onore alla destra del comandante e non ci mise molto a capire di essere il passeggero più importante della nave. Mai una celebrità così sfuggente aveva viaggiato per mare. Martin passò il pomeriggio su un asdraio sul ponte, con gli occhi chiusi, sonnecchiando per la maggior parte del tempo, e la sera se ne andò a letto presto. Il terzo giorno, ormai ripresisi dal mal di mare, tutti i passeggeri della lista erano in circolazione, e più Martin li vedeva, meno gli piacevano. Eppure sapeva di essere ingiusto, si fece forza e ammise che erano tutte persone per bene, gentili. Nel momento stesso in cui aveva fatto quella missione, li inquadrò. Erano borghesi, e tutti i borghesi erano persone per bene, gentili, con le pastoie mentali e le futilità intellettuali della loro classe. Quando parlavano con lui, lo annoiavano. Le loro menti superficiali sembravano essere stipate di vuoto, mentre il chiassoso buon umore e l'eccessiva energia dei passeggeri più giovani lo infastidivano. Non erano mai tranquilli. Giocavano con i cerchi, tiravano anelli, passeggiavano per il ponte, correvano verso i parapetti con alte grida per guardare i delfini che saltavano e i primi branchi di pesci volanti. Martin dormì molto. Dopo colazione tornò alla sua sdraio, portandosi dietro una rivista che non riuscì a finire di leggere. Le pagine stampate lo annoiavano. Non capiva come si potessero trovare così tante cose sulle quali scrivere e, mentre si lambicava il cervello in cerca di una risposta, si addormentò. Quando fu risvegliato dal gong che annunciava il pranzo, se ne irritò. Non c'era alcun piacere nell'essere sveglio. A un certo punto Martin, nel tentativo di riscuotersi dal suo letargo, decise di fare un giro nel castello di prua tra i marinai. Ma la genia dei marinai sembrava essere mutata dai giorni nei quali anche lui aveva vissuto in un castello di prua. Non sentì una consanguineità tra sé e quelle bestiali creature dalla faccia inespressiva e dall'intelligenza bovina. Si sentì disperato. Ai piani alti nessuno aveva voluto Martin Eden per se stesso, ma lui non poteva più tornare da quelli della sua stessa classe, che in passato lo avevano sempre accettato. Adesso era lui a non volere loro. Non riusciva a sopportarli, così come non riusciva a sopportare la stupidità dei passeggeri di prima classe e l'iperattivismo dei giovani. Per Martin la vita era diventata come una luce bianca e accecante che ferisce gli occhi di un ammalato. In ogni momento di veglia vedeva la vita dardeggiargli intorno e al di sopra della sua testa sotto forma di un crudo riflesso. E quel riflesso lo faceva soffrire. Lo faceva soffrire in modo intollerabile. Per la prima volta nella sua vita Martin viaggiava in prima classe. Quando era marinaio aveva sempre abitato nei castelli di prua, nelle stive o nelle nere profondità dei depositi di carbone, intento a spalarlo. In quei giorni, quando si arrampicava sulle scale di ferro per uscire da quelle profondità di infernale calore, aveva spesso intravisto i passeggeri vestiti di freschi abiti bianchi, intenti a non far nulla tranne divertirsi sotto i teloni tesi che li proteggevano dal sole e dal vento, mentre dei camerieri servizievoli soddisfacevano ogni loro desiderio o bisogno. A quel tempo Martin aveva pensato che il regno nel quale quei passeggeri si muovevano e passavano le loro vite non fosse niente di meno che il paradiso. Bene, adesso era lì, il personaggio più importante a bordo, proprio nel centro di quel regno, seduto alla destra del comandante, eppure anelava inutilmente ai castelli di prua e alle stive. Era alla ricerca di un paradiso perduto. Non poteva più tornare nel suo vecchio paradiso, ma non ne aveva trovato uno nuovo. Martin cercò nuovamente di reagire, di trovare qualcosa che lo interessasse. Provò ad avventurarsi nei quartieri dei sottufficiali, ma fu contento di andarsene. Parlò con un timoniere mentre non era in servizio, un uomo intelligente che subito gli tenne una conferenza sul socialismo e lo riempì di volantini e opuscoli di propaganda. Martin lo ascoltò esporre la morale degli schiavi e, mentre lo ascoltava, pensava stancamente alla filosofia di Nietzsche. Ma che valore aveva, dopo tutto? Si ricordò una delle folli frasi di Nietzsche nella quale quel folle filosofo metteva in dubbio l'esistenza della verità. E chi poteva saperlo? Forse Nietzsche aveva ragione. Forse non c'era verità in nulla, neppure nella verità stessa. Forse non esisteva una cosa simile alla verità. Ma la mente di Martin si stancò in fretta e fu contento di poter tornare a sonnecchiare sulla sua sdraio. Martin si sentiva infelice sulla nave, ma un nuovo motivo di infelicità lo aspettava. Cosa sarebbe successo quando il battello fosse giunto a Tahiti? Avrebbe dovuto sbarcare, avrebbe dovuto ordinare le merci, trovare un passaggio su una goletta diretta alle isole Marchesi, fare mille e più cose. Gli era insopportabile anche solo pensarci. Ogni volta che si costringeva a farlo, Martin comprendeva in quale disperato pericolo si trovasse. Era davvero nella Valle dell'Ombra, e il pericolo si nascondeva nel fatto che non ne aveva paura. Se solo avesse avuto paura, sarebbe corso verso la vita, ma lui non aveva affatto paura, e per questo stava sprofondando sempre più nell'ombra. Le vecchie cose familiari della vita non gli davano più gioia. Adesso la mariposa navigava tra gli alisei di nord-est, ma quel vento inebriante che si alzava contro di lui lo irritava. Fece spostare la sua sdraio per poter sfuggire all'abbraccio del giocoso compagno di notti e giorni lontani. Quando la nave arrivò nella zona delle bonacce, Martin si sentì ancora più infelice di prima. Non riusciva più a dormire. Era come se avesse fatto indigestione di sonno. Adesso era costretto a restare sveglio, a sopportare la luce bianca e accecante della vita. Si aggirava ovunque, inquieto. L'aria che gli scrosci di pioggia non riuscivano a rinfrescare era appiccicosa e umida. Martin sentiva la vita dolergli in tutto il corpo. Camminava per il ponte finché non diventava troppo doloroso. Allora si sedeva sulla sua sdraio finché non era obbligato a camminare di nuovo. Si costrinse a finire di leggere la rivista e poi sfogliò alcuni volumi di poesie nella biblioteca della nave, ma non riuscivano a catturarlo e ancora una volta riprese a camminare. Martin rimase sul ponte fino a tardi, dopo cena, ma fu inutile perché quando si ritirò in cabina non riuscì ugualmente a dormire. Non disponeva più neppure di quella via di fuga dalla vita. Ed era troppo. Accese la luce elettrica e cercò di leggere. Uno dei volumi era di Swinburne. Martin se ne stava sdraiato nel letto. Dava un'occhiata qua e là alle pagine, finché, a un tratto, si accorse che stava leggendo con interesse. Finita la strofa, cercò di proseguire, ma fu costretto a ritornarci su. Appoggiò il libro a faccia in giù, sul petto, e si mise a pensare. Ecco, quella era la soluzione. Strano che non gli fosse venuto in mente prima. Se n'era andato così, alla deriva, per tanto tempo, e adesso Swinburne gli mostrava la via d'uscita. Quella era la soluzione. A lui voleva riposare, e in quel luogo avrebbe trovato da attenderlo il riposo. Lanciò uno sguardo all'oblò aperto. Sì, era abbastanza largo. Per la prima volta da settimane, Martin si sentì felice. Aveva infine scoperto la cura della sua malattia. Prese il libro e lesse lentamente quella strofa ad alta voce. Liberati dal troppo amore per la vita, dalla speranza e dalla paura, ringraziamo con una breve preghiera qualsiasi Dio possa esserci, perché nessuna vita vive per sempre, perché i morti non si rialzano più, perché persino il più misero fiume si volge, infine, con fiducia, verso il mare. Martin guardò di nuovo l'oblò aperto. Swinburne gli aveva fornito la chiave. La vita era una malattia, o meglio, era diventata una malattia, qualcosa di insopportabile, perché i morti non si rialzano più. Leggendo quel verso, aveva sentito nascere in lui un profondo sentimento di gratitudine. Era la sola cosa benefica in tutto l'universo. Quando la vita diventa una dolorosa stanchezza, la morte è pronta a porvi rimedio con un sonno perpetuo. Ma che cosa stava aspettando? Era tempo di andare. Martin si alzò e sporse la testa fuori dall'oblò, guardando la schiuma lattescente lasciata dalla mariposa. La nave era a pieno carico e se Martin si fosse appeso al bordo dell'oblò per le mani, si sarebbe ritrovato con i piedi in acqua. Poteva lasciarsi scivolare in mare senza far rumore. Nessuno lo avrebbe sentito. Uno schizzo d'acqua lo colpì, bagnandogli la faccia. Era salata. Aveva un buon sapore. Si chiese se dovesse scrivere il suo canto del cigno, ma scacciò ridendo quel pensiero. Non c'era tempo. Era troppo impaziente di andarsene. Martin spense la luce della cabina perché non lo tradisse e poi mise i piedi fuori dall'oblò. Ma le spalle rimasero incastrate. Allora si rispinse dentro e provò di nuovo tenendo un braccio lungo il fianco. Un rollio della nave lo aiutò e si ritrovò fuori dall'oblò, appeso per le mani. Quando i piedi toccarono l'acqua, si lasciò cadere. Adesso si trovava nella schiuma lattea formata dalla mariposa. La nave gli scivolò accanto come una buia muraglia qua e là interrotta dalla luce degli oblò. Andava a tutta velocità. Prima ancora che Martin se ne rendesse conto, la mariposa lo aveva lasciato di poppa a nuotare gentilmente nella sua scia schiumosa. Un bonito vide il biancore del corpo di Martin e cercò di addentarlo. Lui rise forte, ma il pesce si era portato via un brandello di carne e il dolore della ferita gli fece ricordare perché si trovava in acqua. Preso dal come farlo, Martin si era dimenticato del perché si fosse gettato in mare. Le luci della mariposa svanivano in lontananza, e lui era lì e nuotava tranquillo, come se avesse intenzione di raggiungere la terra più vicina, distante più o meno un migliaio di miglia. Era il naturale istinto di sopravvivenza. Martin smise di nuotare, ma come sentì l'acqua ricoprirgli la bocca, le sue mani scattarono bruscamente verso l'alto, come per sollevarsi. Volontà di vivere, fu il suo pensiero, e quel pensiero fu accompagnato da una smorfia. Bene, allora non era del tutto privo di volontà, anzi, aveva volontà sufficiente per distruggere quell'istinto e cessare di esistere con un unico estremo sforzo. Martin cambiò posizione, da orizzontale a verticale. Mentre lasciava uscire l'aria dai polmoni, guardò in alto, verso le stelle, che brillavano tranquille. Poi, con un'agile, vigorosa spinta delle mani e dei piedi, sollevò le spalle a metà del tronco, fuori dell'acqua. Voleva darsi lo slancio per la discesa. Si lasciò andare e affondò, senza un solo movimento, una statua bianca che sprofondava nel mare. Martin, nell'acqua, respirò profondamente, deliberatamente, come un uomo che inali un anestetico. Ma quando si sentì soffocare, le braccia e le gambe si misero istintivamente a frustare l'acqua e lo riportarono alla superficie, nella chiara luce delle stelle. Oh, volontà di vivere! Pensò Martin con disprezzo, sforzandosi inutilmente di non ispirare aria nei suoi polmoni gonfi. Bene, avrebbe dovuto provare in un altro modo. Si riempì i polmoni d'aria, li riempì il più possibile, così avrebbe potuto scendere in profondità. Si rivoltò nell'acqua e a testa in giù iniziò a nuotare con tutta la sua forza e la sua volontà. Giù, sempre. Martin teneva gli occhi aperti e guardava le scie dei bonito fosforescenti come fantasmi che gli sfrecciavano intorno. Sempre nuotando, Martin sperò che non lo attaccassero. Avrebbero potuto indebolire la sua determinazione, ma i bonito non attaccarono e lui trovò tempo per essere riconoscente alla vita di quest'ultima gentilezza. Giù, Martin nuotò sempre più giù, fin quando le braccia e le gambe divennero così stanche che faceva fatica a muoverle. Sapeva di essere sceso molto. La pressione dell'acqua sui timpani era diventata dolorosa e aveva la testa piena di ronzii. Stava per cedere, ma costrinse le sue braccia e le sue gambe a portarlo ancora più giù, finché dovette cedere e l'aria gli uscì dai polmoni come se esplodesse. Le bolle, iniziando il loro cammino verso la superficie, danzavano e cozzavano come minuscoli palloncini contro le sue guance e i suoi occhi. Poi arrivarono il dolore e il senso di soffocamento. E quel dolore non era la morte. Questo fu il pensiero che oscillò attraverso l'incerta coscienza di Martin. Nella morte non c'era dolore. Quell'orribile sensazione di soffocamento era la vita, una delle offese della vita, l'ultima che la vita stessa potesse infliggergli. Mani e piedi iniziarono a battere, ad agitarsi spasmodicamente, decisi ma deboli. Eppure Martin era riuscito a imbrogliarli, a imbrogliare anche l'istinto di conservazione che li faceva battere e agitare. Era sceso troppo in profondità. Le sue mani e i suoi piedi non sarebbero mai riusciti a riportarlo in superficie. Gli sembrò di galleggiare fiaccamente in un mare di visioni sognanti. Colori e luci lo circondavano, lo ricoprivano, lo invadevano. E quello, che cos'era? Sembrava un faro, ma era all'interno del suo cervello, una luce bianca e forte che lampeggiava sempre più rapidamente. Ci fu un lungo suono sordo e gli sembrò di cadere lungo una grande, interminabile scalinata. e da qualche parte, là in basso, Martin sprofondò nell'oscurità. Questo era tutto ciò che sapeva, che era sprofondato nell'oscurità, e nell'istante stesso in cui lo seppe, smise di sapere. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it